Buonasera. Bravo. Questo ritardo, ma no, c'è un problema per tornare in mano. Questa sera lo spettacolo non credo possa andare in scena. Mi dispiace. È che, no, mi scherzo, ho appena ricevuto le risposte all'analisi del sangue che ho fatto qualche giorno fa. E i risultati sono qui, questa busta chiusa che non ho il coraggio di aprire. Mi capita sempre così, almeno una volta l'anno, che ho paura. Io ho paura di quello che so già scritto su questi fogli e precisamente alle voci transaminasi, transaminasi DOT, GPT e gamma GT. Sì, sapete tutti cosa sono le transaminasi, no? Sono quei valori enzimatici che se troppo alti indicano sofferenze del fegato e che nel mio caso si ripetono puntualmente con cifre altisonanti. Questo diciamo a causa, come dire, di un mio particolare amore che nutro per le bevande alcoliche. Forse è proprio per questo che ho scritto uno spettacolo dedicato all'alcol, ma è per lo stesso motivo che, mi spiace signori, ma io questa sera proprio non riesco ad andare in scena. Scusate. Io non riesco a concentrarmi, capite? Io lo so che qui dentro ci sono valori totalmente sballati. E dunque non ce la faccio. Voi sapete che la parola alcol deriva dal termine arabo al-kul. Al-kul. E uno già da qui dovrebbe intuire che potrebbe esserci la fregatura. E invece io no, testardo fino alla fine. In realtà in arabo la parola al-kul indicava semplicemente una polvere finissima che le donne orientali utilizzavano per tingersi ciglia e sopracciglia. Passato in Occidente servì agli alchimisti per indicare ogni corpo ridotto in polvere sottilissima, volatile, per estensione la sua essenza, fino a che Paracelso, nel XVI secolo, non chiamò lo spirito divino alcol vino, e da qui il suo significato attuale, alcol etilico, etanolo. Quindi alla fine la colpa è degli altri, ovvio. Anzi no, la colpa è del vino. A proposito di arabi e di vino, mi vengono in mente due quartine di un poeta islamico, Omar Khayyam, vissuto tra il 1100 e il 1200. Da quando la luna e i pianeti comparvero in cielo, nessuno vide mai cosa più dolce del purissimo vino. Pien di stupore sono io per i venditori di vino. Che cosa mai potranno comperare migliore di quel che hanno venduto? E poi, mi hai infranto sul sasso il calice del vino, Signore. Hai versato in terra il vino color di rosa. La porta della delizia mi è chiusa in faccia, oh Signore. Scusa la bestemmia, ma sei ubriaco, Signore. Ora, pensare che l'Islam proibisce completamente l'uso di bevande alcoliche, questi versi dedicati al vino, scritti da un islamico vissuto nel XII secolo, suonano ancor più straordinari. Certo, parliamo del vino. Il vino è il re delle bevande alcoliche, io adoro, lo amo talmente tanto che odio chi mangia l'uva. E sì, gli fa l'uva, non spreco, non faccio il vino. Ma le bevande alcoliche sono tantissime. E infatti si definisce bevanda alcolica qualunque bevanda contenga alcol etilico. E a me piacciono tutte, o quasi. Vino, birra, grappa, vodka, whisky, rum, tequila, Mistral, Barton, Brandy, Sidro, Gin, Armagnac, Cognac, Calvados, Mescal, Slivovitz, Schnaps, Acquavite, Centerre, Idromel, Anisetta, Uso e Sake. Tieni, ma che vuoi tu dalla vita? Bravo, perché di solito c'è sempre un fregnone che risponde un lucano. Comunque non sarebbe sbagliato, perché in effetti mancava la mano. Comunque, in ogni caso, io questa sera non ce la faccio e la colpa è del contenuto di questa lettera. Proprio oggi doveva arrivare. Sapete, io sono un ipocondriaco, un po' fifone. Anzi, io sono proprio un cagasotto. Da anni mi dibatto ormai tra la voglia di bere e i periodi di astinenza alcolica che puntualmente seguono i responsi medici relativi ai miei prelievi ematologici fino al prelievo successivo, in cui l'insopportabile intervallo fatto di privazioni di spirito, proprio così, non ha però rimesso tutte le cose a posto, dandomi modo di ricominciare a bere. Io sono una specie di dottor Jekyll e Mr. Hyde dell'etanolo, ma la doppiezza è insita nella natura stessa dell'alcol. Le bevande alcoliche hanno tutti i requisiti fondamentali per essere assunta emblema universale dell'ambiguità in cui versa la condizione umana. Bene e male, sogno e realtà, malinconia e euforia, solitudine e convivialità, ricordo o oblio. Ma è proprio all'interno di questo ampio spettro di possibilità percepibili che l'arco stesso rappresenta perfettamente una delle questioni fondamentali della storia del pensiero occidentale, il senso della misura. Dall'astemio all'alcolista. Benché il corpo umano sia composto per l'80% da acqua, l'astemio è uno che non ne ha ancora abbastanza, mentre per l'alcolista la realtà è un'illusione creata dalla mancanza d'acqua. Ma allora dico io, ma chi ha ragione? Ha ragione Omero, che già 3000 anni fa nell'Odissea si esprimeva con prudenza sull'argomento. Il vino mi spinge, il vino folle che fa cantare anche l'uomo più saggio, e lo costringe a danzare e tira fuori la parola che sta meglio non detta. Oppure ha ragione Shakespeare, che nell'Enrico IV descrive la prima ebbrezza come quel qualcosa che rende il cervello perspicace, vivo, inventivo, pieno di forme agili, ardenti, dilettevoli. Ha ragione Seneca, che nella Roma del primo secolo d.C., pur essendo egli stesso un abilissimo viticoltore, vede nel vino un piacere a cui l'uomo deve saper rinunciare. Oppure ragione Orazio, che è sempre a Roma, ma un secolo prima, scriveva: non possono piacere a lungo né vivere i versi scritti da un bevitore d'acqua. Probabilmente hanno ragione Seneca e Omero, il tanto agognato senso della misura, ma io tifo Orazio e la vedo come scelta. Anche se, a onor del vero, Shakespeare parla di prima ebbrezza, che è proprio quel momento in cui l'effetto alcolico è più efficace, più bello, in cui rende il cervello inventivo, l'immaginazione alcolica. Mi piace moltissimo una poesia di Trilussa, Vino Buono. Mentre bevo mezzo litro di frascati a boccatello, guardo il muro del tinello con le macchie di San Vito. Guardo e penso quanto è buffa certe volte la natura che combina una figura col San Nitro e con la muffa. Scopro infatti in una macchia una specie d'animale, pare un'aquila reale, con la coda dei cornacchi. Là c'è l'orso, qui c'è il gallo, lupi, pecore, montoni, e su un mucchio dei cannoni passa un diavolo a cavallo. Ma nel fondo si intravede una donna nella posa di chi aspetta qualche cosa, dall'amore, dalla fede. Bevo il vino e guardo il muro con un buon presentimento. Sarò sbronzo, ma mi sento più tranquillo e più sicuro. Se si riuscissero a mantenere quegli istanti di perfezione regalati dalla prima imprezza, ci vorrebbe il senso della misura. Ma io non ce l'ho il senso della misura. Non ce l'ho mai avuto, non ce l'avrò mai. Ed è una tragica verità, bere troppo fa male. Io mi sono informato bene, sapete, ho incontrato moltissimi addetti ai lavori, produttori, fornitori, distributori, consumatori, ma soprattutto dottori. E tra questi, una figura che si è rivelata illuminante è il dottor Martinoni, cattedratico all'Università di Bologna e autore di un testo fondamentale sull'argomento, Uso e abuso a 90 gradi. Se lui fosse qui, si esprimerebbe in questo modo. Buonasera a tutti, sono il dottor Zazinto Martinoni, docente di sociologia applicata presso la facoltà di medicina dell'università Alma Mater Studiorum di Bologna. Sono qui per parlarvi del mio ultimo libro, Uso e abuso a 90 gradi, in cui affronto con brutale chiarezza le problematiche inerenti al pericoloso rapporto che intercorre tra alcol e shashish. Un brivido mi percuote al solo nominare questa magnifica parola. Shash. Ma che sia al contrario, sciozzata all'altra, che ce ne dica, evoca il disastro. L'alcol è la sostanza di abuso più diffusa e più utilizzata. L'alcol è una droga. posizionata al quinto posto della classifica di pericolosità stilata dalla rivista medica Lancet, la cui assunzione determina effetti ansiolitici che costituiscono un rinforzo positivo, ma soltanto in una prima fase. I suoi effetti, infatti, sono sull'umore. Essi comprendono maggiore rilassatezza, senso di benessere, euforia, aumento del desiderio e disinibizione. I maschi lo metterebbero in ogni pertuzzo, mentre le femmine, oltre che nell'orale, eccellerebbero anche nello scritto, facciamoci capire. Ma tali effetti sono in funzione della quantità di dose di alcol assunto. Se tale dose mi supera il livello critico, gli effetti positivi lasciano il posto a quelli negativi. Elopio indistinto, perdita della coordinazione motoria, disfunzione del sistema percettivo, visivo, auditivo e somatosensoriale. Ed ecco che allora l'alcol si toglie la maschera e si rivela per quello che è il killer del sesso. Ma a quel punto l'eressione diventa impossibile. Praticamente una lumaca stanca ti prende inerte in mezzo alle gambe, e mentre tu con il mondo che ti zilla vorticosamente intorno tenti di recuperare a fatica mutande e calzini che nel frattempo sono diventati 2 e 4 perché si vede doppio, la tua compagna di bevute sciarazzata arrancata al water intenta mutarsi l'anima e a sperare che tu, insieme al tuo biascicare indistinto e fastidioso, scompaia dalla sua vita, dalla sua casa, dal suo album di ricordi fatto di fallimenti sessuali. Ricordatevi, ragazzi, uso e abuso a 90 gradi, alcol e sesso. Sesso. Avete capito? Esistono 1000 implicazioni negative nel bere alcol. Anche nel sesso. Scolatura del dottor Martino. Comunque, come vi ho detto, io mi sono informato bene e anche altri medici mi hanno confermato che un abuso di alcol può determinare gravi danni alla salute, al sistema cardiocircolatorio, aritmie, aumento della pressione sanguigna, al sistema gastrointestinale, tossicità per pancreas e fegato, al sistema nervoso centrale, sindrome di Wernicke e sindrome di Korsakoff, al sistema genitale, impotenza, sì, per i maschietti, per le donne alterazioni del ciclo mestruale, danni al feto, ma per i maschietti non solo impotenza, anche femminilizzazione testicolare, ginecomastia vuol dire che ti crescono le tette. Ora, se c'ho la pressione alta, meglio la masticca, ma se mi crescono le tette, che prendo? E no, non fare fattura, qui la situazione è drammatica, la situazione è tragica. C'è anche la femminilizzazione testicolare, mi fa anche un po' schifo, non so nemmeno cosa voglia dire, non lo voglio sapere. Ora, è vero che mi piace dire, ma io non posso correre questi rischi. Quindi adesso, anche grazie a questa chiacchierata, devo avere la forzadi aprire questa busta, prendere atto della situazione finché sono in tempo, ammesso che io sia in tempo. Transaminasi GOT, GPT e gamma GT ben oltre i valori normali, più del doppio, gamma GT più del triplo. Ma che tristezza. Devo smettere di bere. Questa è una cosa quasi contro natura. L'essere umano consuma bevande alcoliche da sempre, da quando le ha scoperte, probabilmente per caso, magari assaggiando un qualche succo rimasto in qualche rudimentale contenitore abbastanza a lungo da dar luogo alla fermentazione degli zuccheri. Magari era proprio succo del frutto di Vitis vitifera, pianta rampicante che cresceva spontanea nelle foreste. Affondava le sue radici nella terra già 300.000 anni fa. Ovviamente per la birra l'uomo ha dovuto attendere lo sviluppo dell'agricoltura, serviva orzo, frumento. Ma pare che in alcune tavolette mesopotamiche antiche più di 6.000 anni, pare che vi siano ricette illustrate per la produzione della birra. Fonti storiche confermano che già prima del terzo millennio avanti Cristo gli egizi conoscessero bevande simili alla birra. Questa cosa è meravigliosa. Immaginate sumeri, assiri e babilonesi che organizzano l'Oktoberfest sulle sponde del Tigri e dell'Eufrate. O Tutankhamon a Padova, con la media chiara, e lo schialetto ha detto alle noccioline. Adesso credo che sono quelle immagini egizie che si vedono sempre, quelle sono le caramelle del Papa che portano da sole. Ma beati loro. La verità è che l'uomo tende naturalmente all'alcol, io sicuramente. Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. Se non succede niente, si beve per far succedere qualcosa. Bere senza avere sete e fare l'amore in ogni tempo sono le uniche due cose che ci distinguono dagli altri animali. Solo che io ho bevuto talmente tanto alla salute degli altri che ho finito per perdere la mia. E adesso mi tocca l'astinenza. Ora, non è che il problema sia così irreversibile, non sono a un livello tale di dipendenza. Perché l'alcol crea dipendenza, sia fisica che psichica. La forma grave di astinenza fisica inizia dopo circa 8 ore. In un primo stadio i suoi sintomi sono tremore, nausea, aumento della sudorazione. Questa fase può durare 24 ore, ma nelle forme più gravi arriva a 3-6 mesi, con l'aggiunta di tachicardia, delirio, febbre, praticamente il delirio in trance. La ricerca continua di alcol e la voglia continua di bere sono poi ulteriori conseguenze dell'astinenza e della dipendenza psicologica, mentre poi si aggiunge anche insonnia, sbalzi di umore. E che? Speriamo bene. Ora io lo so che bere non è la risposta, ma io bevendo mi dimentico proprio la domanda. Io vi confesso che spesso bevo per far sembrare gli altri più interessanti, praticamente lo faccio per voi. A mali estremi, bevi e rimedi. Ma che sto dicendo? Ma io qua mi devo mettere a dieta. Da domani niente più abbuffate e soprattutto niente alcol. Ma sì, e vedrete che dopo 14 giorni, dopo 14 giorni avrò perso 2 settimane. Ecco che l'ho fatto. Ma io non penso che se smetti di bere vivi di più, è che la vita ti sembra più lunga. No, eh? No, io non voglio stare male. E quindi sono costretto a smettere di bere. E sapete perché sono costretto? Eccolo qua, il cerchio si chiude. Perché non ho il senso della misura. Io non riesco a bere il giusto. Ma che vuol dire poi bere il giusto? Questo è un dilemma, oltre che filosofico, è religioso, è spirituale, dove ai dualismi precedenti se ne aggiunge un altro, sacro e profano. Se pensate al valore simbolico del vino nel cristianesimo, ebbene, questo è totalizzato, il sangue di Cristo. Però vediamo che l'Islam, un'altra religione, impedisce completamente l'uso di bevande alcoliche. Nell'Antico Testamento il patriarca Noè è ricordato come colui che diede inizio alla viticoltura, ma anche come colui che sperimentò per primo gli effetti inebrianti del succo del frutto della vita. La prima spruzza. Tanto da suscitare lo scherno del figlio Cam, che lo trova addormentato nudo, in preda all'ubriachezza. L'ambiguità del vino, dono sacro o strumento di perdizione? Se pensate alla divinità pagana Dioniso per i greci, Bacco per i latini, le cui celebrazioni prevedevano rituali in cui il consumo di vino era volontà, tanto da scatenare nei suoi seguaci un senso di liberazione, di verità, il vino come fonte di verità. L'espressione vino veritas, che è giunta a noi in latino, ma che è stata diffusa da un greco, al cielo. Ora, tutto questo avveniva tra orge e danze sfrenate, in cui le protagoniste erano le mene o baccanti delle vere e proprie sacerdotesse del vino e del sesso. Ma non di tanto. Comunque a tutt'oggi resistono questi antichi rituali, soltanto che sono sconosciuti a te, ma non a me, che nel mio peregrinare alcolico ho bevuto con un'infinità di personaggi alcolici, e tra questi vi è l'ultimo depositario dei segreti dei misteri dionisici. Sì, costui non poteva che provenire dall'antica terra della Magna Grecia. Il suo nome è Rino, il mistico di Crotone. Se lui fosse qui, vi parlerebbe in questo modo. Saluto a voi, sogno Rino, un mistico di Crotone. Io sogno l'ultimo sacerdote di Dioniso, dio del vino, dell'estasi e della liberazione dei sensi. Io sogno la guida degli adepti del cielo, tu greco bianco, tu greco nero, tu magliocco e dama albasia. Cosa con ettare, io scateno l'estasi nei miei seguaci. Con esse ci ritroviamo tra i boschi della sera E lì invochiamo Dio oggi, come facevano migliaia di anni fa i nostri avi. Il tuo sacro corteo, fatto di donne e uomini come baccanti e satiri, tutti ignudi, coperti solo di penne, e con un capo incoronato di tralci e pampini di vite, ci scateniamo con Uditirambo. Uditirambo è un canto corale in cui i partecipanti si scatenano in canti e danze al fine di riportare in superficie la vera natura dell'uomo, a sua parte primordiale, istintiva, selvaggia, che resta presente anche nell'individuo più civilizzato. E lì, mentre invochiamo Dioniso, io incarno Dioniso e il suo sacro bastone utilizzo e vai con Uditirambo. E mentre le baccanti agitano Tirso, ah, come lo agitano Cristo Tirso, un'estasi frenetica pervade le anime e i corpi che si intrecciano, si mescolano, si avviluppano, si ingroppano. Il tuo sacro mito di Dioniso, il suo primo amore pederastico, fu consumato con il giovanissimo Ampero. Ricordiamo il giovane Ampero, adolescente dai piedi di Capretto. Ma alla fine giungiamo allo Sparagmos. Lo Sparagmos è un rituale terribile e brutale in cui i partecipanti dilaniavano nell'antichità a mani nude animali vivi allo scopo di mangiarne le carni crude. Ma questo migliaia di anni fa, nell'antichità, perché nel mio personalissimo culto di Dioniso vi è uno Sparagmos ripetuto e corretto. A mani nude dilaniamo anduia soppressata allo scopo di cibarci dalla sacra linfa, dalla nostra terra natia. Ma il massimo dell'esagerazione dei sensi, là dove tutti i freni inibitori crollano e i più insani istinti prendono un sopravvento, è quando a mani nude dilaniamo e sbraniamo un capocollo fritto in tanduia, innaffiato con litri e litri di cirò, e ci sodomizziamo senza ritegno al grido di cirò, cirò, mo ficco io e tu no, cirò, cirò, mo ficco io e tu no. Viva Dioniso, in alto Dioniso. Però i misteri dionisiaci erano davvero così estremi, come racconta assai bene Euripide nella sua tragedia Le Baccanti. Le Baccanti agitano il Tirso, l'eccitazione si trasmette all'intero bosco, non c'è più niente di fermo, tutto si agita in frenesia, una totale assenza di misura in funzione dell'elemento sacro. Una sorta di trance spirituale. A proposito di trance, mi viene in mente un proverbio russo che dice: non esistono donne brutte, dipende soltanto da quanta volta cadete. Ma questo è un altro discorso, ci porterebbe in luoghi che non sono abituato a frequentare. Ma però vedo lì il signore lì in terza fila che si è acceso l'occhietto. No, scherzi, scherzi. Passiamo oltre, senza chiedere i prezzi. No, scherzi. Scherzo, scherzo, ma io non c'ho niente da scherzare, perché io non mi posso più permettere di bere né vino né vodka né qualunque altra bevanda alcolica. Signori miei, carta canta. Transaminasi alle stelle. Canto. Potrebbe essere il titolo di una canzone. Magari una canzone d'amore. Transaminasi alle stelle per te. Che m'hai lasciato da solo perché è finito il vino, bom, bom, bom. Ma che megano, ma qua è proprio finito il vino, questa cosa avrà conseguenze anche in amore, sì, nel rapporto con le donne. Io ho già detto che il vino è il re delle bevande alcoliche, ma è anche la bevanda più romantica. L'amore è un sentimento che ben si addice al vino, nel bene e nel male, nel corteggiamento, ma anche nell'abbandono. Per sopportarlo, nell'estasi degli amanti o nell'inferno dell'ultima lite, nell'euforia del primo incontro o nel dramma del non sei tu, è un periodo. L'amore è il vino è l'amore. Canzone al vino di William Butler Yeats. Il vino raggiunge la bocca, l'amore raggiunge gli occhi. Queste sono le uniche due verità che ci è dato conoscere prima di invecchiare e morire. Sollevo il bicchiere alle labbra. Ti guardo e sospiro, è bellissimo. Ma perché innamorarsi è come prendere una bella sbronza? Sì, sapete, secondo una ricerca scientifica, significa? L'ossitocina, l'ormone che tutti gli esseri umani producono quando si sentono amati e desiderati, impedisce all'altro di arrivare a quella parte di cervello che determina l'ubriachezza. Quindi davvero innamorarsi è come ubriacarsi. Secondo i ricercatori tedeschi dell'Università di Regensburg e secondo i ricercatori australiani dell'Università di Sydney, ciò che consente a una coppia di innamorare di bere tranquillamente una bottiglia di vino senza subire alcun effetto alcolico collaterale è proprio l'innamoramento. E in special modo questa benedetta ossitocina che tutti noi produciamo quando ci sentiamo amati e desiderati. Ora, questi ricercatori hanno usato per condurre tale ricerca alcuni gatti. Hanno usato dei gatti. Ora, non è che hanno usato dei gatti innamorati. Non penso nemmeno ci abbiano provato a far innamorare i gatti, anche se è soprattutto al ratto che dovrebbe piacere la topa. No, molto più prosaicamente hanno somministrato ossitocina a una parte di questi gatti, mentre a tutti quanti hanno somministrato altro. E hanno verificato oggettivamente che quelli a cui era stata somministrata l'ossitocina reggevano l'alcol molto più degli altri che erano già stronzi da un pezzo. Questa cosa è molto interessante. Sì, perché potrebbe essere una soluzione anche per me. Se io mi innamorassi, mi scatterebbe l'ossitocina e mi sentirei già ero, senza bisogno di bere. Solo è più facile a dirsi che a farsi. Sì, perché per far scattare l'ossitocina uno si deve innamorare per davvero, sinceramente. Mica è facile. Come si sa, il cuore non si comanda, ma manca il fegato. Comunque io credo che le probabilità di incontrare l'anima gemella aumentino in una situazione conviviale dove una moderata assunzione di alcol faciliti la socializzazione. Certo, dipende dal contesto, dall'ambiente. Ma io sono convinto che per ogni ambientazione vi è la bevanda alcolica che il meglio si attaglia al rapporto uomo-donna. Come ho detto, dipende dal contesto sociale, culturale, economico, antropologico addirittura. Ma, non so, champagne per le atmosfere più eleganti, sfavillanti, glamour. Birra per un ambito più proletario, di impegno civile, un po' centro sociale, un po' lotta di classe. Grappa, distillati come la grappa per i luoghi estremi della mente dove le affinità elettive si incontrano e trovano rifugio, ma anche il vino del contadino, perché no? Per una dimensione bucolica, più tradizionale, dove la terra diventa complice per una seduzione agreste. Vi ho già detto che nel mio peregrinare alcolico ho bevuto con un'infinità di personaggi alcolici in altrettanti contesti diversamente alcolici. E tra questi uno che mi è rimasto nel cuore è il conte Gianfilippo Meneghini Caccialini di Parte Guelf, grande appassionato di donne e esperto di champagne, colui che amava ripetere, citando Ben Davis peraltro, che prima o poi nella vita di una donna arriva un momento in cui l'unica cosa che può esserle d'aiuto è una coppa di champagne. Buonasera, state comodi, quanta bella gente. Mi presento, Gianfilippo Meneghini Caccialupi di Parte Guelf. Molto piacere. Mi fa molto piacere essere qui con voi. Parlavate di champagne, io adoro champagne. Modestamente io vivo di champagne. La mia azienda produce bottiglie di champagne. Una bottiglia di champagne, ragazzi, è come una bella donna. È elegante, seducente, erotica. E la bollicina poi fa subito festa. E non c'è altra bollicina che tenere, l'unica è quella di champagne, è il perlage. Il perlage dello champagne è come lo sguardo di una bella donna, mi fa lo stesso effetto, scatta la libidine. E quando stappi una bottiglia di champagne, fa subito risata. E quando una donna ride, è già iscritta ai donatori di organi, ve la dà. Ma vi rendete conto che l'1% della popolazione mondiale possiede più dell'80 o 50% della ricchezza mondiale? Ma vi rendete conto che l'80% della ricchezza mondiale è posseduto da meno del 30% della popolazione mondiale? E voi pensate a bere lo champagne? Ma vergognetevi! Ma bevetevi piuttosto una bella birra, una bevanda proletaria, sincera, la bevanda dello sindacalista che difende i diritti dell'operaio, ma pure di uno che gli piace la patata, e certamente. Perché pure con le femmine la vita le dà un certo fascino, lo fascino dell'uomo rude, frutale, le sostanze, ma pure di uno che c'è stato la testa, Certamente. Ve ne rendete conto che pure sulla FIFA aumenta continuamente la tassazione? Ve ne rendete conto che ci magari più del 46% tra IVA e accise? Forza, per poco a chi si è inventato le accise. Ma ve ne rendete conto che sul whisky buono ne parliamo proprio? Per ogni ettolitro di alcol etilico presente dentro al whisky si pagano 1000 euro di accise, 10 euro per ogni litro d'alcol puro. Ma tu ci vuoi arrivare? Ma vi rendete conto che per ogni euro speso per la birra più di 45 centesimi vanno all'ufficio? È fregna! E i numeri sono importanti, pure con le fregne. Mi non so, a me ne piace la grappa, mi vengo dalle montagne del cazzo, sono un uomo del cazzo. Mi metterei con una snaffa e via. La mula dei Parenzo la porta al tulle fora, se può giocare demora, 3-7 briscolo. Mi piace la grappa, mi non intendo le donne. Mi sono felicemente sposato con la Mitosa. Con la Mitosa facciamo lo scambio di coppia. Sì, sì, mi sono moderno, sono un uomo del cazzo. Soprattutto la Mitosa che cambia, le serve per distrarsi il 40, sempre sola in casa, ciò. Lei cambia uno dietro l'altro, soprattutto è l'altro che va dietro di lei. Mi metto lì con la mia boccia le sniappa, mi trinco una sniappa e via. Le mie marine bon, il le tre volte bon, soltanto la domenica mi batte sul gruppo. Ma beve un bicchiere di lei, la femmina la devo far bene, home strack e femmina ambriata. Uè Africa, allora sei quello di comprendono, alle donne piace lo stile champagne. Mi non so, a me piace la spontaneità e la Mitosa la dà via così, spontaneamente. Ma io sto a parlare di cose concrete, alle fine le serve concretezza, la vita è concreta. Prima gli offri la vita e poi gli spari le cifre. Un 88 d'altezza, 85 kg di peso, 54 di giacca, 48 di pantaloni, 44 di piede e 22 di lupolo. No, dico, sto messo male. Ma bello, bello un bicchiere di me, che tanto te muovo, non te muovo, quelle che ci mette già le frutte. Ma che vuoi andare per un culo? Con le femmine ce l'ho la prima. Mi non so, a me mi piace la semplicità. Ero con la Mitosa che cercavo un posteggio, ma c'era traffico, e allora ho fatto lo scambio di coppia. Ho scambiato la Mitosa con un parcheggio. Se è comodo lo scambio di coppia. Ma bello, bello un bicchiere di me, è pura sente, dai. Allora se veramente tu non li comprendo, devi salvare le apparenze, l'immagine è importante, se non te lo puoi permettere usa le imitazioni. Nel mio listino Barboni troverai il Non Perignon e il Kruger, vanno serviti Freddy Kruger come champagne un incubo, ma almeno hai salvato le apparenze. Ma che cazzo, ma chi ti conosce? Uè mamma, stai calmino, eh. Ma chi finito? Del dono riuscito? Uè, selvaggio, torna nel tuo tugurio, strunze, birra, froce, omofobo, ma vaffanculo, va, e non si metteranno mai d'accordo. Incondivisibili, non troveranno mai un punto di contatto. Comunque io, perdonatemi, adesso prima di iniziare la dieta, domani iniziare questa astinenza, vorrei farmi perdonare con voi, vorrei fare un brindisi a tutti voi, davvero, scusandomi anche di non fare lo spettacolo questa sera, però vorrei qualcosa di più aggressivo. Adesso dico a Ulisse se ha una vodka o un whisky. Ulisse, posso avere una vodka o un whisky? Ma come a te? Ma che sei impazzito? Io teoricamente è un genio, la tua donna è una. Scusate, abbiamo fatto tre, ma facciamo per tutti. Pronto? Sì, sono io. Sì. Eh sì, l'ho appena detto. Come non so? Non sono le mie? Ma come è possibile? Ho capito che è un errore. Ma è un errore grave, che cazzo? Ho preso lo spavento enorme. Sì, vabbè, scusate, ma le mie come sono? Non lo so. Sì, ho capito, le riceverò per posta. Senti, una curiosità, ma queste di chi sono? Ah, beh, giusto, la privacy. Senta, ma mi conferma che non sono mie. Sì, no, ha fatto benissimo a telefonare. Oh, apprezzo il gesto, grazie. Buonanotte. Non sono le mie! Questa cosa è una figata, non sono le mie. Brindiamo. Brindo a tutti voi. Un brindisi a tutti quanti voi. Salute. Ma cosa? Cinci, cheers, salut, santé, campari, nastrovia, nastrade, nastarovia, nastradio, che mi rilasso. mangiare col vino va benissimo, ho detto fino adesso che nel re delle bevande alcoliche. Voi sapete che la parola brindisi, e sì, io sono un po' fissato con le parole, perché le parole sono importanti, le parole raccontano. La parola brindisi deriva dallo spagnolo, brindis, che a sua volta deriva dal tedesco, brindis, che significa lo porto a te, intendendo il saluto. Ora, questa espressione è stata trasmessa dai lanzichenecchi all'esercito spagnolo. Vi rendete conto? I lanzichenecchi erano dei mercenari terribili, sanguinari, e hanno inventato una parola così gioiosa, festosa, convivialità. Questo è un altro esempio della doppiezza, che è sempre in agguato quando si tratta di alcol. Ormai abbiamo capito che è un dono meraviglioso per l'essere umano, ma anche una minaccia incombente. Eh sì, perché a parte gli scherzi, ma l'etilismo o malattia dell'alcolismo è un problema sociale gravissimo, che genera violenza, genera morte. Se pensate agli incidenti stradali, un incidente stradale su tre, spesso mortale, è causato dall'alcol. Abbiamo parlato fino ad ora di amore vino, amore alcol. Ebbene, se a questi due ingredienti aggiungiamo la violenza, il cocktail diventa letale, e spesso l'alcol amplifica la violenza, se non addirittura la genera. Ora, nell'opera di Baudelaire, Le fiori del mare, vi è un'intera sezione di poesie dedicate al vino. Tra queste ve n'è una dal titolo Il vino dell'assassino. Se ascoltata oggi, con un occhio proiettato al presente, il suo significato di contemporaneità è inquietante. Mia moglie è morta. Sono lì, finalmente posso bere a sazietà. Quando rientravo senza un soldo, i suoi urli mi penetravano sin dentro le fibre. Sono felice come voi. L'aria è pura, il cielo è magnifico. Abbiamo avuto un'estate così quando mi sono innamorato di lei. Per spegnere questa sete che mi strazia, ci vorrebbe tanto vino quanto ne può contenere la sua tomba, e non è dir poco. L'ho buttata in fondo a un pozzo, e in più le ho gettato addosso tutte le pietre del parapetto. Potrò dimenticarla. In nome dei teneri giuramenti che nessuno può sciogliere, per riconciliarci come al tempo della nostra ebbrezza, io implorai un appuntamento, la sera in una strada scura, e venne, folle. Siamo tutti chi più chi meno di fuori. Era ancora così graziosa, ma era tanto stanca, io l'amavo troppo. Per questo le dissi: esci da questa vita. Nessuno di voi può capire. Mai uno di questi ubriaconi inebetiti pensò nelle sue notti morbose di fare del vino un sudario. Crapuloni invulnerabili, automi di ferro, mai nell'estate, nell'inverno. Avete provato il vero amore con il suo seguito infernale d'allarmi, i suoi incantesimi, le sue fiale al veleno, le sue lacrime, il suo stridio d'ossa e di catene. Eccomi solo, libero. Questa sera sarò ubriaco francio e senza rimorsi né paure mi stenderò a terra e mi addormenterò come un cane. Il grande capo carico di pietre di fango, il treno infuriato, potrà ben schiacciare la mia testa col pelo e troncarmi a metà. Io me ne infischio di Dio come del diavolo e della sacra mensa. Charles Baudelaire. Ora, Charles Baudelaire era anche colui che sosteneva che chi beve acqua ha qualcosa da nascondere, che poi non è altro che il vino veritas, solo che è detto al contrario. Ma quando è che possiamo davvero non nascondere nulla? Quando è che possiamo essere davvero noi stessi? Quando siamo soli? Ebbene, la solitudine è una tonalità assai accesa di questo grande affresco che racconta la travagliata storia d'amore tra l'uomo e l'alcol. E una delle sue sfumature più moderne, più in voga, è quella che riguarda internet, la sbronza 2.0, che è una sbronza che si va consumata in solitudine, no? Il massimo esponente della sbronza 2.0 che ho conosciuto e con cui ho bevuto è Gigetto De Torpignattara, detto Sciottino, alcolista e eremita del duello. Salve a tutti, io sono Gigetto, detto Sciottino. Sto sempre solo a casa, su internet, e navigo, mentre navigo ogni tanto mi faccio l'oceano. A me mi piace il whisky, per quello mi chiamano Sciottino. Perché mentre posto, twitto, taggo, clicco, mi piace. mi faccio un concetto. Io vivo sul web, io sto connesso, io non esco, io mi basto, e quando sono abbastanza sciolto, chatto, messaggio, commento, mi piace. Io faccio amicizia, mi innamoro, mi informo, mi fidanzo, faccio pace, mi lascio, mi rimetto insieme, mi critico, ogni tanto gioco a poker e quando mi va faccio una pugnetta, mi piace. E sapete come faccio? Posto, clicco, taggo, clicco, clicco, mi piace. Qui c'ho un bello. Io sono Alfonso, la fidanzata di Gigetto, no? Ma lui pensa che io mi chiamo Barbara. Ovviamente non ci siamo mai incontrati, no? Ci siamo conosciuti in jet, non in jet, in jet. Lui pensa che io stia in giro per il mondo, ma io faccio il ragioniero alla provincia di Foggia. Gigetto pensa che io sia un attivista di Greenpeace. Io più che attivista sono passivista. Ma una cosa vera c'è, mi piacciono gli uccelli e adoro il pesce. Io e Gigetto ci facciamo degli aperitivi virtuali meravigliosi, virtuali perché siamo in jet, non in jet, in jet. Meravigliosi perché beviamo veramente, sì, sì, sì, lui si fa 7-8 sciottini e io mi faccio 2 o 3 negroni, mi piace i negroni. Ciao Henry. Ma poi bevi un bicchiere di vino e ricci la porta, da quando è me. Solitudine vera in mondi virtuali. Ma ormai abbiamo capito, è tutta una questione di giusta misura, superata la quale non è altro che un susseguirsi di infinite combinazioni tra animo, mano e arco, i cui risultati sono incontrollabili nel bene e nel male. A tre giacinto grappoli la vita. Bevi del primo il limpido piacere, bevi dell'altro l'oblio breve e mite, e più non bere, che sonno è il terzo. E nel nero sonno, da un canto, con lo sguardo acuto, vigila il dolore, e alto grida muto un pianto già pianto. Questi erano i tre grappoli di Giovanni Pascoli. Povero di palla Giovanni Pascoli, però non ha tutti i torti. E io questa sera ho capito, e grazie a questa chiacchierata ho deciso, da domani io verrò giusto, indipendentemente dal risultato delle analisi. Sì, sì, perché ho capito cosa vuol dire bere il giusto. Io verrò il giusto non per non stare male, verrò il giusto per stare bene, è un'altra cosa. E se una sbronza mi farà star bene, che sbronza sia, purché io non sia un pericolo per me o per gli altri, perché questo non mi farebbe star bene. Quindi io da domani verrò il giusto, ma c'è il tempo. Da domani. E il tempo va d'accordo con l'alcol. L'alcol lo blocca, lo eternizza, lo rende immortale. L'alcol è il massimo del carpe diem. Lo diceva anche un po' Eduardo in una sua poesia, il da bottega. In da bottega, un altro di 3.000 è rimasto. E che fa? Lo guardo, me lo tengo a me, me lo stimo e dico, e rimane un bello, rimane non esiste. E ogni giorno prima, siccome se ne chiude, ma che esiste, esiste sulla mente e sulla mente, e chi sta lì 3.000 in da bottega. E che faccio? Mo perdo. E ne vanno a fare. Sì, mo perché se manca a bottega, lo perdo una via. E allora bevo. E chi sta sul Sevilla vince la partita con l'eternità. Napoli. A Napoli, nel mio peregrinaggio alcolico, ho incontrato l'unico retta napoletano che non è diventato famoso, ma grande di tutti. Lui si chiama DJ Boom Boom. Insomma, DJ Boom Boom, faccio rapper, bevo cocktail, o preferite Coca-Cola e rum, li vado alcolico, guagliù, tranziamo in Asia alle stelle per te, che mi hai lasciato da solo perché hai già venuto a come a cretino senza più un drink potesse farci in cin, ma sento proprio a strunzi in tacchista tunz, tunz, tunz, tunz, tunz, tunz. Livello alcolico, guagliù, come a tequila, mi chiama Boom Boom. Grazie, grazie, grazie. Grazie per questa visione che mi avete dato stasera. Come direbbe John Belushi, ho visto la luce. E da domani verrò il giusto. Perché che cosa riposa in fondo a una bottiglia di vodka? Riflessi di sole, rubati ad un poeta, declamati da una distesa aria dove sangue di donne e uomini lamentano soltanto il bisogno di toccarsi. E vanno senza dar fiato al proprio urlo, alla ricerca continua dell'ultima goccia di piacere. Grazie, grazie davvero. Ma che succede, scusa? Dovresti rispondere al telefono. Davvero? Eh sì. T'hanno citofonato? Penso che ti cerchi il laboratorio analisi. Sigo? Scommetto che sono le mie, no? Ah, ma sì, e allora? Sì, ma come fa? No, ma non ho capito, come fa ad essere sicuri che è qui? Ah, avete telefonato a casa e vi hanno detto che è venuto a vedere Alto l'attore di Nona. È incredibile, sì. Ditemi il nome così gliela consegno. No, molti li conoscono, sì? E ho capito che c'è la privacy, ma io come faccio? Ma no, mi sembra un po' maturo. No, no, no, la sala non è grande, anzi, tanto. Vabbè, proviamoci. Cioè, voi me lo descrivete e io devo individuarlo poi con discrezione a fine spettacolo ve le faccio avere. Vabbè, proviamo a fare questa cosa. Ettore, mi dai un po' di luce in platea? Sì. No, no, non mi faccio accorgere. Dissimulo. Sì. Sì, no, penso che ho capito, sì. No, no, non può essere. No, no, no. Ah, sì, ho capito, sì. No? No? Ah, ho capito tutto. Ho capito, no, non c'è proprio. Ci penso io, ho visto un minuto l'altro, l'ho conosco. Va bene. Grazie, mamma. Chi l'avrebbe vedere? Il finale con Giallo, il finale thriller, proprio non ci avrei mai sperato, però perdonatemi, ma come avete sentito io non posso dire il nome dell'assassino. Anzi, il nome dell'assassino lo sappiamo, e non vi posso dire proprio il nome della vittima. Abbiamo inventato un nuovo genere, il giallo con la privacy. Comunque vi lascio con un messaggio di speranza. Signore e signori, il bene trionferà sempre sul male.